Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno a tutti, 7:35 minuti, buongiorno ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare. Partiamo tra poco con una veloce rassegna stampa che ci accompagnerà fino al giornale radio delle 8. Poi Si può fare, il programma vero e proprio, il buongiorno del weekend di Radio 24, 349-238-6666, anche su WhatsApp. E poi la pagina Facebook Si può fare, trattino Radio 24, c'è anche l'account su Twitter, chiocciola Si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Cominciamo, giornali, se avete cose da dire ditele, 349-238-6666. Vai, iniziamo. Allora, dunque, giornali che sono presi e sono alle prese con alcune notizie principali che danno la linea sui titoli. La questione delle banche venete con il via libera della Banca Centrale Europea, un piano sostanzialmente di liquidazione. Poi l'inchiesta milanese su Expo, le intercettazioni che riguarda il sindaco di Milano, indagato anche per turbativa d'asta quando era amministratore delegato di Expo. Le intercettazioni di Roma invece dall'altro lato sull'ex braccio destro del sindaco Raggi, che definiva inadeguata la sindaca, e questo era Raffaele Marra. Ma poi l'addio a Stefano Rodotà, scomparso ieri a 84 anni. Il grande caldo, c'è anche questo sui giornali di oggi. Titoli, diamo un'occhiata ai titoli. Il Corriere: parte il piano sulle banche venete, via libera della BCE alla liquidazione, modello Montepaschi per i risparmiatori, passo in avanti verso l'acquisto da parte di Intesa. Oggi le mosse del governo, perché oggi dovrebbe arrivare un decreto del governo dopo questo via libera della BCE. Scrive Repubblica: banche venete, la scure della BCE, salvataggio al via. E ancora La Stampa: banche, ecco il conto, 31 miliardi di euro da Montepaschi, Siena, Etruria, tanto sono costati i salvataggi, arriva il decreto del Consiglio dei Ministri per questo caso, per le venete. La notizia di ieri: per la BCE, Veneto Banca e Popolare di Vicenza sono improbabile fallimento, salvi i correntisti e i bond. Ora però serve anche il sì dell'Unione Europea. Fatemi vedere dov'è il Sole 24 Ore. Sole 24 Ore: per le banche venete, bad bank da 20 miliardi di euro. E infatti questa è l'ipotesi su cui sta lavorando il governo, questo decreto che dovrebbe arrivare oggi, che si sta limando, 20 miliardi, un conto che adesso vediamo, è una somma di varie voci. Comunque, trattativa in salita tra l'Unione Europea e il governo, in arrivo due decreti e soprattutto anche la nomina dei commissari, scrive il Sole 24 Ore in prima pagina, dopo che Intesa ha fissato le condizioni per rilevare le ex popolari venete. Si tratta con il Tesoro per separare le attività malate da far confluire in una bad bank. Si va verso una maxi bad bank con in pancia oltre 20 miliardi di euro. In arrivo intanto un decreto legge che estende l'utilizzo di questi 20 miliardi, dei 20 miliardi del salva risparmio, un decreto che dispone la liquidazione e anche il provvedimento di Banca Italia sulla nomina dei commissari, scrive Gianni Trovati. Per entrare brevemente nel dettaglio di questa vicenda, scrive: sul tavolo del decreto l'incognita dei costi e l'accordo con Intesa, il negoziato con Intesa e i costi del bilancio pubblico. Ci sono questi due nodi intrecciati tra di loro al centro del lavoro affannoso dei tecnici del governo per far decollare la macchina normativa con il nuovo piano sulle due banche venete. Tracciare i confini tra le parti good, tra parte salvabile, da affidare a Cade Sass, e quella bad, cioè la parte con tutti i conti da smaltire con l'intervento statale, è il primo punto in agenda. Da qui poi dipende il costo complessivo di questa operazione per le casse pubbliche, per i soldi dei contribuenti. Diciamo così, per semplificare, le stime viaggiano fino a 5-6 miliardi per avviare queste bad bank, ma al conto andrebbero poi aggiunti i soldi necessari al rifinanziamento del fondo esuberi per gestire le 4.000 uscite di lavoratori che sono stimate per la ristrutturazione e poi il costo di gestione degli NPL. E questo è un assaggio della vicenda delle banche venete che, ripeto, troverà oggi un passaggio probabilmente con l'approvazione a parte del Consiglio dei Ministri di un decreto apposito su questa vicenda che, come detto, occupa i titoli dei giornali, ma abbiamo letto sostanzialmente quasi tutti i titoli, come se ne sono occupati i giornali oggi. Altra questione è quella, dicevamo, della inchiesta che riguarda, ed è il secondo titolo del Corriere della Sera, che riguarda il sindaco di Milano, Beppe Sala. Tanta amarezza per il caso Expo, ma vado avanti. Questo è il virgolettato di Beppe Sala, che ha così commentato la notizia. La notizia qual è? La chiusura delle indagini per l'inchiesta sulla piastra, sull'appalto principale per la realizzazione di Expo, dal quale il sindaco di Milano è risultato, anche se lui si lamenta di aver ricevuto la notizia, ma questo è una cosa che accade regolarmente, non dai magistrati ma dalla stampa, di essere indagato anche per turbativa d'asta. La vicenda è quella della fornitura di alberi in una gara, 6.000 alberi per l'Expo, in una gara che, secondo l'accusa, avrebbe dovuto essere riformulata. Perché? Perché c'era stato uno scorporo dell'appalto sul verde pubblico, cioè era stato scorporato, era stato tolto dall'appalto principale questo, diciamo, mini appalto degli alberi, ma non è stata formulata una gara apposita, è stata fatta un'assegnazione che per l'accusa, diciamo, non rispetta le regole e per questo Sala è finito indagato. Luigi Ferrarella però ci ricorda sempre sul Corriere che facendo i conti sono 12 i reati del maxi appalto dell'Expo commessi e c'è anche la corruzione, stando sempre alle accuse. Ma vediamo di che si tratta. Una corruzione, scrive Luigi Ferrarella, 3 turbative d'asta, mi dia 3 turbative d'asta e 3 abusi d'ufficio, grazie. Sì, ce l'abbiamo tutti. Allora, ripeto, una corruzione, 3 turbative d'asta, 3 abusi d'ufficio, un falso in atto pubblico, una intrusione illecita in sistema informatico, una ricettazione, una rivelazione di segreto d'ufficio, una omessa denuncia. Ci sono ben 12 ipotesi di reato che, secondo la Procura Generale di Milano, intervenuta 6 mesi fa dopo aver tolto il fascicolo alla ritenuta inerte Procura della Repubblica, perché poi all'interno c'è anche uno scontro tra magistrati, questo in sottofondo, che avrebbe costellato comunque nel 2012 l'appalto più importante di Expo, quello per la cosiddetta piastra messa a base d'asta per 272 milioni di euro. Qua stiamo parlando dell'avviso di conclusione delle indagini, preludio dopo 20 giorni alla richiesta di rinvio a giudizio se gli indagati non faranno cambiare idea al procuratore generale Roberto Alfonso riguarda a vario titolo alcuni dei vertici delle organizzazioni di Expo, tra cui appunto Beppe Sala, Angelo Paris, che allora era il direttore generale, poi c'era di mezzo il responsabile ufficio gare di infrastrutture lombarde Antonio Rognoni, Pierpaolo Perez, l'allora dipendente di Metropolitana milanese progettista della piastra Dario Comini. Sul versante privato i rilievi vengono mossi a Pier Giorgio Baita e Franco Morbiolo, presidenti l'uno della capofila Mantovani, l'altro del socio consorzio Veneto Cooperativo, vincitori del famoso appalto. La contestazione che più rischia di riscrivere il racconto di Expo 2015 è anche la più inedita, cioè l'ultima che è apparsa. e cioè la corruzione e la turbativa d'asta che ipotizzate ora a carico di Comini, Baita e Morbiolo avrebbero minato dall'inizio l'appalto della piastra. La vicenda è molto complessa, non si riesce a entrare troppo nei dettagli per spiegarla, ma insomma qualche elemento ve l'abbiamo dato. Come viene trattata la notizia sugli altri giornali? Allora, per esempio, sulla prima pagina di Repubblica non c'è traccia di questa notizia. Addio a Rodotà, le banche venete, c'è spazio anche per notizie che riguarda il gruppo De Benedetti. I veleni di Marra sul Campidoglio, Raggi più principessa che sindaca, abbiamo detto le intercettazioni di Marra su un'altra inchiesta, ma su, sto guardando, non c'è notizia su Repubblica, giornale amico di Sala, ma si dimentica di mettere in prima pagina questa notizia. La Stampa anche si dimentica, mi pare, sì, direi che si dimentica, sì, adesso poi qualcuno mi farà notare che mi sono perso la notizia, non se la dimenticano. Invece altri giornali, tra cui per esempio il giornale che dedica il commento di Alessandro Sallusti, un commento indulgente nei confronti di Beppe Sala. Sala non è la Raggi e l'efficienza non è reato. Il sindaco di Milano sotto accusa per Expo, la vicenda risale alla sua presidenza di Expo, riguarda l'appalto per il verde bla bla bla. I magistrati scambiando, ammesso che sia vero, un merito, quello di avere così permesso l'apertura di Expo, per una colpa grave, e vabbè, insomma, è chiaro il commento. Questo è un caso che tende la mano a Beppe Sala, a cui viene riconosciuto il merito di avere portato avanti Expo, di averlo portato a termine, di aver consentito che iniziasse e chiudesse, da qui la fretta secondo, diciamo, questa interpretazione, e il mancato rispetto di tutte le regole. L'efficienza non è reato, scrive Alessandro Sallusti, ma il tono è lo stesso sul Libero, giornali che in altri tempi non sarebbero stati altrettanto teneri con o per altre notizie col sindaco di Milano Sala, che anche in questo caso viene tra virgolette assolto da Libero, che in un commento dal titolo "Per i giudici aver fatto l'Expo è un reato" di Pietro Senaldi affronta lo stesso argomento, che è quello appunto che abbiamo appena detto, il sindaco Sala indagato. Ci fermiamo per il traffico. 349-238-6666, siamo qui tra un attimo. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta... La grande civiltà, con una foto di profilo di Stefano Rodotà, il manifesto saluta così, dando il suo addio al giurista, politico soprattutto, esperto di diritti, è stato anche primo presidente dell'Authority sulla privacy, e scrive Norma Rangeri in prima pagina: una eredità preziosa, caro professore, perché questo sei stato per tanti di noi, ora che ci lasci capiamo ancora di più quanto ci mancherai e quanto mancherai a tutto il paese. C'è da dire che la scomparsa di Stefano Rodotà, dando un'occhiata anche ieri ai social network, i commenti era un uomo anche di parte, perché è stato un uomo dei radicali, poi indipendente del Partito Comunista, del PDS, quindi non necessariamente un uomo nato per unire, candidato poi dal Movimento 5 Stelle a Presidente della Repubblica, ma quindi un uomo che ha militato anche, però un uomo di una statura e anche di una onestà intellettuale che viene riconosciuta più o meno da tutti, uno di quelli che vengono così sempre identificati come i padri della Repubblica, Repubblica malata, non malata, mettetela come volete, ma insomma una statura che oggi magari si fa fatica a ritrovare altrove. C'è anche chi si distacca comunque profilo comunque positivo di Rodotà, come per esempio Elisa Calessi sulla prima pagina del Libro, che dice: addio Rodotà, dal PC ai grillini quanti errori, andando poi a leggere nell'articolo gli errori non vengono enucleati, diciamo, esplicitamente, ma credo che si faccia riferimento a quando scrive la Calessi, Rodotà è stato fiero oppositore di Silvio Berlusconi, tra i più imperterriti censori del conflitto di interessi, così come fece tutte le sue battaglie radicali in difesa della laicità e della totale autodeterminazione dall'inizio della vita per quanto riguarda l'aborto fino alla fine. Poi, dopo la mancata elezione al Quirinale, è tornato a farsi sentire per contrastare la riforma costituzionale del governo Renzi e di nuovo per difendere l'uso delle intercettazioni da ogni possibile restrizione. Questi, per Libero, sono altrettanti errori delle scelte fatte da Rodotà, che invece vediamo sul Corriere, come viene ricordato, addio Rodotà, il giurista delle battaglie sui diritti civili. C'è un ritratto, ovviamente. Stefano Rodotà è nato a Cosenza nel 1933, giurista, professore di diritto civile, ha aderito al Partito Radicale di Mario Pannunzio, parliamo di un secolo fa, rifiuta nel 1976, poi nel 1979 la candidatura col Partito Radicale, però di Pannella, eletto invece successivamente come indipendente di sinistra nel Partito Comunista di allora nel 79, poi riconfermato nell'83 e nell'87, è stato presidente del PDS dal 91 al 92, primo garante per la privacy dal 97 al 2005. Tante altre ancora le cose, i 5 Stelle lo candidarono alla presidenza della Repubblica nel 2013. Addio a Stefano Rodotà, che viene ricordato anche su altri giornali, l'uomo dei diritti, una vita fatta di passione civile, scrive Repubblica. Scendendo di livello molto, se volete, vado sulla prima pagina del Giorno, dove si tratta il tema del caldo, il grande caldo e soprattutto la grande sete. Italia tra caldo e siccità, weekend di fuoco, 9 città da bollino rosso, interviene il governo. Dice il ministro Galletti, l'acqua è un bene prezioso, nuovi invasi per stivarla, gli investimenti, sì, però bisogna aumentare le tariffe. Ai ai ai, ministro Galletti, come? Ci dai anche una brutta notizia nel momento in cui già siamo alle prese con la mancanza d'acqua. In Parma e Piacenza è stato dichiarato stato di emergenza, il Po in secca, addirittura sul lago di Bracciano, dov'è che l'ho visto adesso, eccolo qua sulla stampa, c'è un reportage sul lago di Bracciano, ci sono le caprette che pascolano sul fondo del lago in secca, e tu Galletti ci vieni a dire che bisogna aumentare le tariffe dell'acqua subito, così, vabbè, forse è vero, è una promessa del ministro, sarà vero, però non è una bella notizia. Sì, certo, il punto è che, come ci ricordano altri giornali, oggi la nostra rete di gestione dell'acqua, gli acquedotti in sostanza, hanno perdite che sfiorano il 40%, quindi ci vogliono investimenti sicuramente per ammodernarle, bisogna vedere se questi investimenti devono pagarle i cittadini. Comunque, tornando alla situazione di oggi e domani, cosa posso dirvi? Bologna, oggi una massima fino a 36 gradi, con una temperatura percepita che arriverà fino a 38 gradi. Stessa situazione a Torino, sono le città dove la colonnina di mercurio, come si dice, salirà di più, ma poi il bollino rosso riguarda anche Pescara, Perugia, Firenze, Ancona, Brescia, Bolzano e Campobasso. Domani una rinfrescatina dovrebbe arrivare sul nord e esserci un piccolo passaggio di aria fresca, ma il centro-centro-sud continuerà il caldo. Chiudo con il titolo del giornale che se la prende con Fabio Fazio. Ieri il Consiglio di Amministrazione della RAI ha esaminato i palinsesti autunnali, contratto di 2,2 milioni di euro l'anno per Fabio Fazio, 4 anni, somma totale Fazio, cocco di Mamma RAI, 11 milioni di euro per restare. E che dire ancora? Tanto di cappello a Fazio, ha vinto, stravinto su tutti i fronti, si porta a casa un contratto faraonico, gli viene permesso di sforare il tetto di legge sui compensi di 10 volte, viene promosso da Rai 3 a Rai 1, gli vengono anche comprati i diritti di Che Tempo Che Fa, un contratto tra i più alti mai visti in Rai, 11,2 milioni di euro per 4 anni, e questo in barba a un intero Parlamento che voleva ridurre il compenso a lui come alle altre star a 240.000 euro. È tutto, perché adesso arriva il giornale radio, giusto? Sì, Carmelo Ricciani in regia, grazie, ci risentiamo dopo con Si Può Fare, ciao, più tardi. Si può fare. si può fare. Cronache da un paese migliore. Otto e 20 minuti, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. E buongiorno e buon sabato a tutti da Carlo Gabardini. Si riparte con Si può fare, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Carlo, Milano Monterosa. È bellissimo, c'è il sole, però forse non tanto. Bisogna più dirlo, perché siccome ormai c'è troppo sole, c'è troppo caldo, arriva il caldo africano, c'è la siccità, manca l'acqua. C'è sempre da lamentarsi. Temperature fino a 38 gradi oggi in alcune città italiane. Devo dire, da queste parti c'è un po' di venticello, un po' d'arietta. Sì, è vero, anche ieri ero sul balcone a leggere e effettivamente quella brezzolina c'era. Il problema è che manca l'acqua in un sacco di posti. Ne parleremo più avanti con un rappresentante di Coldiretti. Nel frattempo 800 24 00 24, stiamo insieme fino alle 10, cari ascoltatori, siamo in pieni fase di esami di maturità. E allora noi ci degli vogliamo altri, la maturità degli altri, perché il bello è che si vedono anche tutti al bar, tutti noi che leggiamo sul giornale le notizie, dico quale traccia è uscita, però comodamente, certo, così dicendo mi puoi portare un altro spritz. C'è un po' di soddisfazione nel vedere gli altri alle prese coi loro esami, ricordando i nostri esami, i vostri esami di maturità. Allora vi chiediamo questa mattina, come sempre, di farci un racconto, il vostro racconto epico, la storia di una vita, perché l'esame di maturità spesso accadono cose incredibili. Un tempo forse di più, no? Si dice spesso, infatti ogni volta si dice ma non è più la maturità di una volta. Ecco, oggi vogliamo sentire le maturità di una volta, ma non solo ovviamente, se ci sono dei giovani che hanno fatto, se stanno facendo gli esami di maturità, noi accettiamo anche loro storie, esatto, proprio le freschissime, quelle della maturità del 2017. Come sta andando adesso, oppure anche come appunto è successo a voi, se è successo come a Claudia Schiattone, per esempio, che gli hanno sbagliato la traccia dell'esame di greco. E quindi non capivano più nulla, poverini, erano impazziti. Anch'io non capivo nulla stamattina quando lo spiegavo, perché non sapendo il greco, ero in gigantesche difficoltà, devo dire. Ho detto, oddio, adesso me lo dirà tutto e io non troverò qual è l'errore della traccia di greco. 800 24 00 24, adesso però cominciamo, andiamo sulle Cinque Terre a Monterosso, dove il sindaco è un sindaco che si dà da fare così. Buongiorno a Emanuele Moggia, sindaco di Monterosso. Buongiorno a voi. Benvenuto. Buongiorno. Lei si trova a Monterosso in questo momento? Sì, sì, sì. Oggi è la festa patronale, San Giovanni Battista. Ah, che bella vista mare, quindi siete proprio lì in uno scenario meraviglioso. Assolutamente, un posto benedetto dal cielo. Sì. Pensavo che fosse un obbligo per ogni sindaco comunque di trovarsi nella giusta delle Cinque Terre quando viene intervistato. In effetti è così. Le abbiamo dedicato Heroes di David Bowie. Non so se lei si sente un eroe, però insomma la notizia è questa, che è finita un po' sui giornali della cronaca locale, perché si parla tanto in questo periodo di sicurezza per la movida, per gli eventi dal vivo, dopo anche quello che è accaduto a Torino, ma anche per il flusso di turisti che riguarda le nostre città, più turisti come la sua per esempio, però quando in una cittadina come la sua ci sono due soli vigili urbani, io capisco l'inverno dove siete 1500 abitanti, sindaco, e quelli siete d'inverno, no? Più o meno. Sì, noi siamo poco meno di 1500 abitanti. Però, no, guarda, io non mi sento un eroe, io sono semplicemente un amministratore che cerca di fare il suo dovere, che è quello di far rispettare le norme e i regolamenti. Sì, ecco, però appunto cosa accade? Accade che d'estate, quando invece ci sono tantissime persone nel suo comune, lei continua ad avere due soli vigili urbani, perché c'è il blocco del turnover, non si può assumere i comuni, eccetera, eccetera. Ma ce n'è uno aggiunto! Ce n'è uno aggiunto, lei, che si va in giro col fischietto e volantini, in questo caso contro i venditori abusivi lungo le spiagge, e si è dato da fare così. Sì, quella del fischietto è un po' un'iperbole, me l'ha messo in bocca il vostro collega giornalista. E poi per fare la foto subito dopo, per fare il titolo sul giornale. Però il senso era un po' quello. Ma no, guarda, io pensavo, una volta candidato a sindaco, insomma, pensavo che la vita del sindaco fosse proprio quella di fare dei regolamenti, trovare delle norme condivise per dare una prospettiva, degli indirizzi, insomma, alla propria comunità. Invece poi si è accorto che le toccava andare in spiaggia a dirigere il traffico, praticamente. Eh sì, insomma, le istituzioni adesso vivono anche questa difficoltà, insomma, anche questi limiti forti, ed è necessario anche, insomma, tappare i buchi dove è necessario, ma proprio per continuare a far sì che la credibilità delle istituzioni rimanga in piedi. Perché credo che sia questo poi l'importante, insomma, che quando i cittadini, comunque sia, accusano un momento di difficoltà, tu possa comunque in qualche modo dare una risposta. Sì, dare un segnale. A me però colpisce veramente la sproporzione tra i discorsi che si fanno sui giornali, le riunioni del Consiglio dei Ministri, nuove norme sulla sicurezza, dopo quello che è accaduto a Torino, il ministro dell'Interno Minniti, stretta sulla sicurezza, regole per i concerti, nelle città turistiche ci sono decine, centinaia, quanti turisti arrivano ogni anno a Monterosso? Decine di migliaia. Guardi, noi abbiamo stimato nel complesso delle Cinque Terre l'anno scorso, si parla di più di 2,5 milioni. Capite? Cinque Terre, 2,5 milioni di turisti. 2,5 milioni. Vuol dire che dalle vostre parti transitano centinaia di migliaia, se non proprio tutti e 2,5 milioni di persone. Come si fa a gestire tutto con due vigili urbani? Infatti già quest'anno abbiamo le presenze si stanno alzando. Io ho una stima, che credo che sia molto vicina al vero, di un aumento almeno del 25% rispetto all'anno scorso. Ma meno male, siamo contenti. Quindi altri 750.000, facciamo 3.250.000, giusto? Eh sì, però adesso stiamo arrivando, io per me abbiamo già passato il limite della sostenibilità. Ah. Perché le Cinque Terre, la vocazione delle Cinque Terre, quello che nell'immaginario sono le Cinque Terre, è un posto bello, un posto decoroso, un posto fruibile, insomma, che ti possa lasciare anche delle emozioni, profumi, sapori, colori. Con questo eccessivo carico antropico noi rischiamo davvero, insomma, di rovinarlo questo patrimonio. Mm. Ma visto che lei, sindaco, sta toccando questo argomento del parco e del numero di turisti, che cominciano a essere tanti, siamo tutti felici, però voi dite forse cominciano anche a essere troppi, perché quella è una zona, ricordiamo, l'alluvione del 2011, la frana lungo la Via dell'Amore, la turista australiana coinvolta, il parco chiuso per un sacco di tempo, di anni, adesso si sta cominciando a ripartire. Le voglio far sentire, perché ai nostri microfoni Vittorio Alessandro, presidente del Parco delle Cinque Terre, parlava, fece titolo sui giornali qualche tempo fa, si disse il parco a numero chiuso, e alcuni sindaci sembravano contrari a ridurre il numero dei turisti. Le faccio sentire quello che disse allora ai nostri microfoni il presidente del parco, sentiamolo. Ce l'abbiamo? Ci poniamo questo problema, però insieme agli operatori, insieme ai sindaci, abbiamo condiviso un percorso che mira a obiettivi di qualità. La quantità a questo punto è ampiamente ottenuta e non credo che diminuirà. Tutte le esperienze. Cioè, questo è il suo auspicio, campo, poi chiaramente bisognerà. No, ma anche le esperienze ci sorreggono, insomma, in questa direzione, perché non ci sono state, non è stato depresso il turismo laddove si è cercato di regolamentare. Però, ecco, sindaco, sì, su questa questione di regolamentare l'afflusso, la app che dovrebbe consentire ai turisti di prenotare l'accesso al Parco delle Cinque Terre, c'è questo percorso condiviso, siete tutti d'accordo, oppure, come abbiamo letto sui giornali, qualcuno storce la bocca? Ma io credo che si debba fare un lavoro di più ampio respiro, con dei numeri alla mano e dandosi una strategia comune di azione. Però scusi, che vuol dire questo? Perché parlando col presidente del parco sembrava proprio che questo lavoro fosse stato fatto, un ripensamento. Il parco, ricordiamolo, commissariato, chiuso per tutti i problemi anche di corruzione, eccetera, eccetera. Adesso riparte con un commissario importante, un percorso che ha fatto titolo su tutti i giornali, perché si dice finalmente le Cinque Terre studiano una gestione del turismo più regolamentata. Lei però non vede questo ampio respiro. Ma io non la vedo funzionante al momento questo. Non risponde, a mio avviso, alla realtà. Perché? Che succede? Cos'è che non sta funzionando? Perché il portale di prenotazione ancora non funziona. Non funziona. Quello che dovrebbe, a mio avviso, un centro unico di prenotazione che a priori, prima che arrivassero questi flussi, questi gruppi organizzati, li distribuisse nel tempo e nello spazio proprio per coordinare le presenze nei vari paesi delle Cinque Terre. Questo è il nostro target finale, ma al momento questa cosa non è ancora stata implementata. Ma come mai non funziona? Nel senso che non si sta facendo, come dice lei, un unico centro, oppure semplicemente perché questa app è stata fatta male e quindi non funziona? O non è ancora pronta? Guarda, perché dell'app di cui si è parlato, so che si parla di questa app per la gestione dei flussi sui sentieri, però questa app è collegata a due contrapassi, che sono uno a Monterosso, all'ingresso del sentiero di Monterosso, e uno a Vernazza, che però non contano in tempo reale i passaggi. Noi sappiamo la mattina dopo, perché contapassi contano i passaggi durante il giorno, la sera scaricano i dati, li trasmettono al server, la mattina dopo in ufficio si sa quanta gente è passata il giorno prima. Capisce bene che questo non può essere utilizzato in tempo reale. E non mi sembra poi un gran vantaggio della tecnologia, perché uno conviene che sta lì e li conta e almeno li sa subito, se li deve sapere il giorno dopo. Certo. Insomma. Però scusi sindaco, mettiamola così, questo è quello che accade adesso, evidentemente l'app di cui ci aveva parlato il presidente del parco non è ancora pronta, oppure non è riuscita come doveva. Abbiamo intrapreso sicuramente la direzione. Però non è così semplice arrivarci. Ma stando a quello che era stato promesso, cioè una gestione che invece in tempo reale dovrebbe geolocalizzare la presenza delle persone sul sentiero e dire ci sono 10 persone, 100 persone, ce ne sono 1000, ce ne sono troppe, allora puoi prenotare il tuo ingresso nel parco domani a una certa ora. Se questo fosse l'obiettivo, sarebbe un obiettivo condiviso anche da lei e da voi sindaci delle Cinque Terre? Assolutamente, però a mio avviso deve essere fatto a più ampio respiro. Quello che io dicevo anche a inizio maggio, quando c'è stato anche quello scambio con il sottosegretario Borletti Buitoni, poi c'è stato anche questo incontro molto fruttuoso nel quale ci siamo scambiati punti di vista, abbiamo capito che poi pensiamo esattamente nello stesso modo, è proprio di fare un passo indietro, di iniziare a studiare qual è il carico, la capacità di carico turistica che possono sopportare le Cinque Terre. La capacità di carico turistica viene definita dall'Organizzazione Mondiale del Turismo come il massimo numero di persone che possono visitare una destinazione turistica nello stesso periodo senza causare una distruzione dell'ambiente fisico, economico, socioculturale e una riduzione dell'esperienza turistica, dell'esperienza di visita del turista e della qualità della vita del residente. E voi lo conoscete questo numero? Lo conoscete già questo numero? Il punto è questo, cioè io prima, la mia idea, insomma il mio punto di vista e la mia proposta di lavoro è sempre stata questa, prima di uscire con proposte studiamo il problema alla radice. Noi non lo conosciamo ancora questo numero, però per conoscere questo numero noi dovremmo innanzitutto darci delle regole condivise e essere coordinati da un organismo più ampio che sia del parco e dei comuni. Mi scusi se la interrompo. A sensazione, da ignorante, a sensazione con l'iter che sta descrivendo saremo pronti fra 35-37 anni, mi sembra di capire. No, è importante che il problema sia emerso anche agli onori delle cronache nazionali, perché questo ci aiuta anche a prendere consapevolezza a tutti i livelli, che è necessario iniziare ad affrontare e a lavorare per il problema. Però perché non ci sia una soluzione che poi a lungo termine possa essere efficace, a mio avviso è importante affrontarla in modo scientifico. Questa capacità di carico turistica si può calcolare solamente se ci diamo delle regole condivise, e queste regole necessariamente andranno a penalizzare una certa categoria economica, ricettiva, piuttosto che un'altra. Faccio un esempio. Se io penso che la superficie calpestabile delle piazze delle Cinque Terre, ad esempio, no? È una risorsa limitata. Noi dovremmo iniziare a pensare in ogni metro quadro di vie, di carugi, di piazzette delle Cinque Terre, secondo noi, quante persone ci possono stare contemporaneamente? Una, zero, una, ovvero una persona ha diritto a 10 metri quadri di spazio, una persona ha diritto a un metro quadro di spazio. Con questo calcolo noi sapremo quante persone più o meno possono essere in un paese. Sì, però sì, ma si saprà già, immagino. Lo sapete voi, sindaco, ha ragione Carlo, dovete saperlo già adesso, io penso. Io vi auguro di riuscire a mettervi d'accordo, voi sindaci, col presidente del parco, con le altre autorità, le sovrintendenze, tutti quelli che sono coinvolti. Un grande in bocca al lupo naturalmente da parte nostra. Noi stamattina siamo partiti da questo si può fare, perché ci chiediamo se insomma può essere un sindaco che se ne va in giro col fischietto a cercare di dirigere, anche se il fischietto gliel'ha messo in bocca il collega giornalista, ma insomma denunciando questa mancanza di personale, perché ci si riempie la bocca con la questione della sicurezza, del decoro, delle regole, della movida, eccetera eccetera. Poi in un paese turistico come Monterosso ci sono due soli vigili urbani, e questo sicuramente è una cosa che non si dovrebbe, soprattutto a fronte di 2,5 milioni di turisti che passano di lì l'estate. È una cosa pazzesca. Quindi giriamo la domanda agli ascoltatori all'800 24 00 24. Salutiamo Emanuele Moggia, sindaco di Monterosso, grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Buon lavoro anche a lei. E vi aspettiamo, ascoltatori, anche per i vostri racconti sui vostri esami di maturità, magari anche quelli che proprio di questi giorni, come sta andando la famosa traccia su Caproni. Giorgio Caproni. Che dire? E poi, insomma, Carlo, tu potresti raccontare del tuo esame di maturità e potrei raccontare del mio. Io ho fatto la scuola tedesca, quindi le maturità le ho fatte tutte e due, sia quella italiana sia quella tedesca, però racconterei delle cose che si conoscono meno, quindi forse meno interessanti. Però vi fanno fare il discorso, perché nel tuo libro dice a un certo punto che a fine anno, è verissimo, a fine ciclo, c'è il discorso di maturità, e lo fecero fare a me, sì, quello in italiano, perché io mi rifiutai di fare quello in tedesco, perché il tedesco in quel momento per me era la lingua dei professori, quindi dei nemici. 800 24 00 24, siamo qua tra pochissimo. Logica, spazio, tempo, module block, l'evoluzione del magazzino vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, allora siamo in pieni esami di maturità e allora vi chiediamo i vostri racconti epici, perché succedono sempre cose epiche nel momento in cui si affronta l'esame di maturità. Dalla notte prima degli esami a poi la notte dopo gli esami, o anzi la mattina degli esami. Giovanni da Milano, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io vi ascolto sempre tutti i sabati mattina. Grazie. La maturità, parliamoci chiaro. Allora, anno 1967-68. Un anno tra l'altro intenso. Non qualunque, diciamo, intenso, per l'istruzione. Soprattutto era l'ultimo anno prima della famosa riforma. Certo. Quindi la maturità si faceva con 5 scritti e tutti gli orali di tutte le materie degli ultimi 3 anni. Non so se mi spiego. Si spiega, perché ho avuto un papà e una mamma che me l'hanno raccontata per anni questa questione. Perfetto, perfetto. Tutte le materie, allora, 5 scritti. In più io lavoravo, perché ero apprendista impiegato, e quindi 9 ore di lavoro al giorno e 5 ore di scuola tutte le sere. Vabbè, questo sono cose che quando racconti i figli ti dicono da altri tempi. No, ma è giusto ricordarle però, 9 ore di lavoro al giorno e... 9 sono tante. Ma quindi, scusa, studiando. Giovanni, facevi il serale? Esatto, facevo serale in un istituto privato. Allora, maturità, 5 scritti: italiano, francese, inglese, matematica, ragioneria. Naturalmente facevo ragioneria. Sì. Ragioneria, in inizio all'esame mi porto a scuola il bigino. Sono in seconda fila e lo metto sotto il tavolo. Nel frattempo faccio il mio esame e riesco a copiare tranquillamente. Giovanni, rischiosissimo. Una domanda però, il bigino, no? Tecnicamente come lo definia? Che cos'è? Cos'è il bigino? Erano i vignami, si chiamavano, cioè, erano dei libricini da i riassunti di tutto. Sì, no? C'era tutto. Perfetto. E c'era tutto. Avevo da fare gli articoli di partita doppia, allora si facevano, no? Cosa per ragioneria, sì, sì. Adesso che ti fa il computer schiacciando un bottone, morale lo metto sotto il tavolo, seconda fila, professore gira, intanto io potevo guardare, me lo sono guardato, ho fatto un magnifico esame, ci credo. L'ho terminato, anziché nelle 4 ore, in 3 ore. Eh beh, ma un trionfo, Giovanni, E poi? Esatto. Poi prendo e vado a casa. Dopo tre ore, prima... cioè anche, con la, anche giustamente con la spocchia di dire ci ho messo un'ora in meno. E vai, no? Stavo vicino a scuola perché era tutto nel centro di Milano. Arrivo a casa, suona il telefono alla segreteria della scuola. Cos'hai combinato? Io, niente. Porca la miseria. Maria era la segretaria famosa, no? No, niente, vieni qua subito che ti vuole il presidente della commissione. La Madonna. Aia. Torno indietro. Lei, signora Giovanni, eccetera. Dico sì, è suo questo. E mi tira fuori il bigino con sulle mie iniziali AG, il cognome. L'avevi lasciato sotto il banco e l'avevano trovato. Ma cos'è successo? Ti hanno annullato l'esame? Allora, mi fa, è suo, no, non è mio. Va bene, ci vedremo gli orali. Vabbè, te la sei cavata abbastanza bene, cioè hai negato l'evidenza. No, me la so cavata malissimo perché mi hanno dato due materie, inglese, vabbè, quello l'ho passato a settembre, perché allora si poteva rimediare a settembre, certo. Se potevano. E quindi a settembre mi sono rifatto ragioneria scritta e ho avuto l'ambito diploma di ragioniere perito commerciale con 37 sessantesimi. Mamma, però te la sei sudata, Giovanni, e questa cosa del bigino ti è costata cara perché ti è costata il rimando. D'altra parte tu dici te la sei giocata perché forse ti avrebbero rimandato lo stesso perché non è, magari non saresti stato in grado di farlo al primo colpo, lo scritto di ragioneria. Giovanni, un racconto epico. Bellissimo. Grazie. Tra l'altro, siccome immagino che il reato di bigino sia ormai andato in prescrizione dopo più di 50 anni, non verremo a ritirarti a casa alla maturità. Non so se il presidente della commissione di questo esame ci vuol chiamare, se è ancora tra noi, tra l'altro. Esatto. Parliamo comunque di tanti anni fa. 800 24 00 24, bisognava pure dire. Adesso chiamerà, me lo sento stizzito, che chiama. Esatto. Stizzito, siamo qua. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta. Allora, l'abbiamo presa così con Bob Marley, con questa No Water, perché in effetti, insomma, siamo alle prese con carenze d'acqua un po' da tutte le parti, acqua e poi potabile, dopo non solo. No woman, no cry, no water. No water. Diamo il buongiorno a Rolando Manfredini, responsabile qualità col Diretti, benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno. Allora, Manfredini, perché vogliamo capire un po' com'è la situazione, ma soprattutto se possiamo in qualche modo... dare una mano. Dare una mano, no, certo, risparmiare l'acqua. È stato detto, non bisogna dare l'acqua alle piante, per esempio esagerando in questi giorni, o altri sprechi di questo genere. C'è un allarme siccità che riguarda diverse città italiane, ma c'è qualcuno, qualcosa da qualche parte, compresi gli agricoltori, che stanno studiando delle soluzioni, insomma dei modi per risparmiare l'acqua, perché ogni anno c'è questo allarme, quindi dovremmo essere pronti in qualche modo, no Manfredini? Certamente, lei ha detto una cosa giustissima, perché effettivamente il modello che si riferisce al cambiamento climatico accorcia sempre di più i tempi in cui si manifestano queste ondate di siccità. Teniamo conto che questa è valutata come una delle più gravi da quando ci sono le rilevazioni. Certo, c'è il Po in Secca, le caprette che pascolano sul fondale del lago di Bracciano dove non c'è più acqua. Esatto, però la questione è che, ecco, cosa bisogna fare? Certamente noi, in premessa dobbiamo dire che siamo in una zona abbastanza privilegiata dal fatto di avere due importanti catene montuose dove l'acqua cade. Ecco, questa è la prima cosa da valutare, cioè nel senso che bisognerebbe che ci fosse complessivamente un progetto che prende in considerazione l'acqua caduta quando essa viene e renderla disponibile nei mesi più siccitosi. Sì. Quindi ecco un intervento di carattere strutturale che non può essere più procrastinato. Però il ministro Galletti dice che adesso bisogna aumentare le tariffe dell'acqua perché bisogna fare degli investimenti. Anche questa però non è una buona notizia, perché poi a pagare saranno... Non è una buona notizia anche perché non si possono fare investimenti su un mezzo, cioè l'acqua è fondamentale per tutti, chiaramente per l'agricoltura è un mezzo termico fondamentale, senza agricoltura, senza acqua non si fa agricoltura. Però è proprio questo che le volevo chiedere, Manfredini, perché in qualche modo voi agricoltori siete un po' nel mezzo di questa cosa, perché da un lato siete vittime della siccità, perché appena manca l'acqua le coltivazioni sono a rischio, rischia di salire poi il prezzo anche delle verdure, e questo non è un bene, però siete anche quelli che ne consumano tanta di acqua proprio per irrigare i campi, quindi bisogna trovare modo per consumarla in maniera più razionale, per risparmiare. Ci sono delle tecniche che possono aiutare? Ci sono delle tecniche, ecco, volevo dire che il consumo di acqua in agricoltura, in premessa, questo lo devo dire, tra virgolette, perché effettivamente l'acqua che utilizzano gli agricoltori viene poi successivamente rimessa in ambiente, l'altra va a costruire gli alimenti, perché sono fatti dell'80-90% d'acqua gli alimenti. Ma detto questo, gli agricoltori già mettono in atto delle tecniche che naturalmente devono essere perseguite il più possibile. Se noi pensiamo per esempio alla superficie irrigua nazionale, è un dato importante, noi abbiamo circa 12 milioni di ettari di coltivazione, ne irrighiamo grosso modo 2,5 milioni. Questo è, ne potremmo addirittura irrigare fino a 4 milioni, perché la superficie irrigua è sui 4 milioni. Allora cosa succede? Ci sono degli impianti a bassa efficienza, che sono quelli che si vedono, che sono quelli per aspersione o addirittura per scorrimento, e questi devono essere limitati il più possibile. Bisogna andare a individuare un sistema invece che si riferisca alla microirrigazione, cioè mettere veramente l'acqua a bassa pressione, mirata dove deve andare, poca e mirata, quella che serve, senza sprechi. Esatto, e poi ci sono delle tecniche, uso un termine tecnico ma non mi viene in mente nient'altro, che vengono definite tecniche di aridocultura, cioè vale a dire il fatto di poter fare le coltivazioni con la minima acqua assolutamente indispensabile, captando l'acqua dove non esiste. Per esempio, uno delle zone d'Italia dove l'aridocultura è più avanti nel mondo è proprio Pantelleria. Non c'è una sorgente d'acqua, quindi non esiste sorgente d'acqua, tutta l'acqua che viene utilizzata per famosi prodotti di Pantelleria, per esempio il cappero di Pantelleria o lo zibibbo, che è il moscato famosissimo di Pantelleria, utilizzano l'acqua piovana, stivandola in serbatoi anche sotterranei, e la rendono disponibile acqua non quando ce è necessario. Questo è un fatto importante. Poi, se mi permettete, forse dal punto di vista sociale, a livello globale, noi abbiamo, per contrastare appunto questo spreco d'acqua, abbiamo uno spreco alimentare che costituisce circa il 30%. Si è calcolato che questo spreco alimentare a livello mondiale è la portata di come, un anno come, del fiume Volga. Come si spreca quest'acqua a livello? Si butta via. Vanno a costituire, lo spreco alimentare va a costituire rifiuto e non viene più utilizzato. Quindi contenere lo spreco alimentare significa contenere l'acqua e utilizzarla poi per finire. Insomma, di sprechi ce ne sono, purtroppo ce ne sono tanti, troppi. Bisogna imparare a ragionare diversamente. Soprattutto proprio nelle tubature, perché pare che il nostro acquedotto perda il 39% dell'acqua che c'è. Se si iniziasse a recuperare quel 39% non sarebbe male. Grazie Manfredini, 800 24 00 24. GR, torniamo subito. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Torneranno i cinema all'aperto e i riti dell'estate, le gonne molto corte, tornerà Fellini e dopo un giorno farà un film soltanto per noi. Torneranno i figli delle stelle, non scoppieranno guerre, le facce un po' annoiate su riviste patinate ed anche John Travolta per ballare con te. Quello che resta del sole Ma quanto è bella questa canzone! Quanto è bella questa canzone di Raffaele Gualazzi! Vero, vero, molto bella. Una canzone che sta girando già da un bel po', ma insomma noi abbiamo colto i cinema all'aperto perché la notizia, Carlo, è questa. Agli Uffizi, nel piazzale cinema all'aperto e anche gratuito. Una cosa bellissima, è con noi il direttore della Galleria degli Uffizi, Heike Schmidt, ben ritrovato! Buongiorno. E agli ascoltatori rinnovo all'800 24 00 24 di stare con noi anche per i loro racconti dell'esame di maturità, visto che siamo in piena fase di esame di maturità. Lei che ricordi ha, Schmidt, del suo esame di maturità? Racconti epici, cose incredibili o è andato tutto liscio? Niente di speciale, soltanto che appunto mesi, se non anni, si è... pensava a prepararlo o anche di non prepararlo, di fare altre cose, e poi alla fine la cosa era che era finito molto più, cioè in pochi giorni. Era stato più veloce del previsto, era andato sì, esattamente. L'abitur, giusto, si chiama così. L'abitur si chiama in tedesco. Perché sì, Carlo ha fatto la scuola tedesca, il nostro Carlo Gabbardo. Anch'io ho fatto l'abitur, quindi. Latino, insomma, parola latina, quindi anche abbiamo delle parole latine anche in tedesco, e senz'altro per l'esame di maturità. Senta Schmidt, perché nessuno aveva mai pensato prima, a meno che io sappia, di fare questa cosa bellissima del cinema all'aperto nel piazzale all'aperto degli Uffizi, che è una cosa che fa sognare, meravigliosa. Ma secondo me se Giorgio Vasari avesse conosciuto già il cinema ci avrebbe pensato lui, perché lui era molto interessato al teatro, così come era Cosimo I dei Medici, che ha commissionato lui a costruire gli Uffizi come uffici, come dice il nome, ma anche per costruire il grande teatro mediceo. Infatti nei primi anni dell'esistenza degli Uffizi, forse gli Uffizi erano più noti per il teatro che non per quindi la è nello d'arte. Spirito, lei dice, degli Uffizi fare una cosa del genere fin dall'inizio, solo che il cinema non c'era. È colpa di Cosimo I. Mi piace questa cosa perché è Cosimo I che non aveva messo negli Uffizi il cinema. E comunque il teatro l'ha messo, e poi Giorgio Vasari ha costruito le facciate degli Uffizi sulla base delle scenografie del periodo, e quindi lo spirito c'era. Adesso da più di 100 anni il cinema è l'arte drammatica per eccellenza nel nostro mondo, e quindi credo che dopo un centinaio di anni è tempo che è arrivato il momento. Ma in realtà l'arte più attuale sono le serie televisive, quindi secondo me dovreste spingervi oltre e fare anche, non so, una maratona Lost o una maratona Breaking Bad, sempre agli Uffizi, con un grande televisore nel mezzo. No, si possono anche mostrare sullo schermo. Ma magari saltiamo la televisione e andiamo direttamente ai social e all'internet, così siamo veramente nel XXI secolo. Senta Schmidt, ma quali film, perché io nella foto della cronaca locale, credo che sia Repubblica, vedo la foto del Sorpasso con di Risi, Gassman e Trentignan, esatto, ma è uno dei film che saranno proiettati? Noi cioè ogni sera ci sarà un altro film, e è una scelta operata proprio con gli specialisti, quelli che fanno i festival 12 mesi all'anno a Firenze, quindi sono i migliori film di ogni festival scelti. Perché mi chiedevo se fossero film necessariamente d'autore importante, vengono già agli Uffizi, no? Film con una certa importanza, prosopopea, oppure anche film comici, film leggeri, film certo, c'è una siccome uno dei festival più importanti di Firenze, per cui Firenze è noto anche nel mondo del cinema, e il Festival dei Popoli, che è dedicato ai documentari, abbiamo un certo numero di documentari importanti. Cioè, quello che era importante nella scelta era di proiettare anche dei film che non si vedono nei cinema ogni giorno, che non si vedono su Netflix facilmente. Anche ma un po' di originalità, insomma. Originalità, certo. E poi ci sono anche alcuni film che si connettono proprio con l'arte, non in una maniera illustrativa necessariamente. C'è anche il documentario su Bill Viola che viene proiettato, però ci sono tre film scelti da Giorgio Bonsanti che vengono messi in collegamento con alcuni capolavori degli Uffizi. Quindi cioè, c'è anche un percorso che uno volendo può approfondire. Senta, Schmidt, ma è vero che lei si è finto un turista in coda agli Uffizi per vedere com'è la questione dei bagarini, di quelli che vendono il biglietto per saltare la coda? Ha voluto testare di... il biglietto con sovrapprezzo. Ha voluto testare di persona, è vero? Più di una volta, sì, infatti. Quindi, ma scusi, ma non la riconosceva nessuno? Allora, in alcuni casi non mi riconoscevano e mi offrivano poi il biglietto, in altri casi mi riconoscevano. Infatti una volta avevo tutta una squadra televisiva che era pronto a filmarmi con il teleobiettivo, però loro avevano capito che qualcosa non andava e quindi non mi sono, cioè, proprio mi hanno evitato, quindi in quel caso purtroppo non ha funzionato, ma in altri casi sì che ha funzionato e comunque faccio dei giri per vedere un po' come funziona. Ma perché questa questione dei biglietti venduti con un sovrapprezzo per saltare la coda? Perché è necessario prenotare oppure si arriva e si deve fare una lunga coda? Ma questa cosa è illegale, è illegittima vendere i biglietti in questo modo o no? Allora, c'è un enorme campo grigio, cioè praticamente è legale per un'agenzia turistica di comprare dei biglietti e poi rivenderli ai loro turisti, cioè questo è completamente legale, però può anche essere che un'agenzia poi rivende a un altro operatore e che poi eventualmente rivenda a un quarto operatore e questo quarto operatore potrebbe anche non avere le carte in regola, infatti cioè viene giocato sull'equivoco oppure su un buco normativo, sì, per così dire, perché la rivendita di per sé secondo la legge italiana è legale, però bisogna offrire qualcosa in un più servizio. Esatto, lo stesso problema di Ticket One quando abbiamo parlato dei concerti. Ma lei sta pensando a qualche contromossa perché i prezzi a volte raggiungono dei livelli anche molto molto alti, quindi anche 50 euro per un biglietto che normalmente costa 13. Sì, infatti questo lo vediamo durante le fine settimane di estate regolarmente. Infatti quello che fanno i bagarini è la ricerca sul mercato del prezzo di mercato degli Uffizi. Certo, questo, ma voi... è anche interessante di vedere. Quello che possiamo fare e quello che abbiamo proprio lanciato questa settimana è una offensiva di informazione. Abbiamo messo attivo proprio da stamani un info point all'ingresso del piazzale degli Uffizi, quindi proprio verso Piazza della Signoria, da dove all'incirca 80% dei turisti arrivano. Entrano, sì. E infatti da stamani alle 8:15 fino alle 9 abbiamo già avuto più di 500 turisti che hanno chiesto informazioni lì, quindi li abbiamo attratto quasi 100% dei turisti che non lo sapevano dove prendere il biglietto, dove recarsi. Quindi gli spiega, prima di fare la coda, prima di arrivare alla cassa, gli spiegate qualche cosa su questa questione qua. Ma voi come Uffizi fate un servizio con un biglietto maggiorato che si chiama salta la fila, salta la coda? No, non esiste niente del genere. Perché a Parigi c'è, io sono stato adesso ad aprile e ho fatto online un biglietto che costava credo 10 euro in più e si saltava la coda al Louvre. Sì, però quello che va fatto è di proprio ridurre le code a una misura normale, umana, tollerabile, umana, cioè certo. 10, 15, anche 20 minuti vanno bene, però 2 ore non vanno bene. E quindi certo, questo è quello che ci siamo messi in testa. Abbiamo iniziato proprio già prima di prendere servizio, ho contattato dei specialisti nel settore sia in California sia in tutta Europa e alla fine il dipartimento, il gruppo di lavoro meglio preparato era un gruppo di informatici dell'Università dell'Aquila, e con loro abbiamo iniziato un progetto di ricerca. Ce l'avevamo in casa, sì. E infatti, come talvolta succede, spesso in Italia. E infatti noi stiamo in questi mesi già testando alcuni moduli, e dall'anno prossimo, dal 2018 in poi, implementiamo passo per passo questo nuovo sistema che dovrebbe radicalmente accorciare le code. Bene, meno male. Questa è una buonissima notizia. Tra l'altro l'anno scorso avete fatto un record di turisti pazzesco, oltre 2 milioni, quindi complimenti. Però io, una domanda, ce la deve togliere una curiosità su questa questione del concorso, perché c'è stato il ricorso al TAR, Franceschini ha fatto il Consiglio di Stato, eccetera, la sospensione, i direttori stranieri. Ma questo colloquio che lei ha fatto con gli esaminatori era a porte chiuse o no? Perché una delle cose che è stata detta era a porte chiuse, invece ha detto no perché era in streaming. Com'era questo colloquio, Schmidt? Allora, il mio di sicuro in streaming non era, perché ero a Roma, mi sono recato a Roma, per fortuna ero a Cambridge in Inghilterra per una conferenza, ho fatto una lezione lì quando mi è arrivata la convocazione, quindi ho potuto prendere l'aereo da Londra a venire a Roma. Poi il colloquio, tra l'altro, non era 10 minuti come spesso viene scritto sui giornali, ma il mio era di almeno 20 minuti, 30 minuti, e tra l'altro mi ricordo ancora che a parte il fatto che c'era la commissione e c'era comunque la videoregistrazione, poi c'erano varie persone nella sala, e poi è venuto dentro anche qualcuno che poi aveva dimenticato qualcosa di prima, e quando sono uscito c'era già quello che è stato intervistato dopo. Quello dopo. Quindi è stato pubblico. E io a me sembrava pubblico, cioè ovviamente non hanno messo i manifesti per strada, stadio, che venite tutti a, anche perché sennò io sarei venuto ad ascoltarla, mi sarebbe piaciuto moltissimo. Interessante, certo. No, lo dico sul serio. Beh, il colloquio per il direttore degli uffici arriva anche Schmidt, poteva essere anche interessante. Va bene. Magari la prossima volta, sì. Sì, se la prossima volta ce lo dice, noi lo diciamo in radio e invitiamo tutti. Comunque, benissimo. Grazie anche per questa risposta. Grazie, soprattutto mille. Complimenti per il lavoro che state facendo agli uffici, record di visitatori l'anno scorso, quindi andate bene. Ci fermiamo qua, grazie Schmidt, buona giornata. Siamo in ritardo sul traffico, giusto, vai, quindi veloce, torniamo tra poco. Oggi paradiso costa la metà, lo dice il venditore di felicità. Fuga dall'inferno, finalmente viaggio, la tua vacanza in un pacchetto omaggio. Foto di gruppo sotto il monumento, turisti al campo di concentramento, sulle spiagge arroventate, lasciate ogni speranza voi che entrate. Estate. Macellerie sudate, in coda nei musei, hotel di lusso nei villaggi dei pigmei, mente sana e corpo fatiscente, antologia della vacanza intelligente. La tua vita al largo, da una vita intera, fischia il vento ed urla la bufera, tra le granite e le granate, lasciate ogni speranza voi che entrate. Questa è Si può fare, come tutti i sabati e le domeniche mattina su Radio 24, e questa che abbiamo appena ascoltato e che stiamo sentendo in sottofondo è Tra le granite e le granate di Francesco Gabbani, ed è il nostro Si può fare in musica. Questa canzone ci è stata suggerita da Marta da Gallarate in onore della voglia evasione d'estate. Come ben sapete, noi siamo sempre in cerca di dei Si può fare in musica, quindi se siete dei cantanti, dei compositori, dei musicisti, ma anche semplicemente degli ascoltatori, e vi imbattete in una canzone che secondo voi ben racchiude il concetto di Si può fare, vi chiediamo di inviarcela, di modo che noi la faremo ascoltare. Potete inviarcela, potete inviarci i vostri Si può fare in musica, la mail si può fare @radio24.it, oppure potete avvisarci e mandarci un avviso sui nostri profili social, su Facebook si può fare /radio24, oppure su Twitter @si può fare24, oppure anche sui nostri account personali di Facebook, di Instagram o di Twitter. Il mio è @CarloGabardini, e c'è anche il mio @AleMaurizzi. Ce l'abbiamo tutti, abbiamo i social che ci escono dalle orecchie. A me personalmente cominciano un po' a uscirmi, devo dire, dalle varie orecchie. Poi c'è anche Snapchat, che mi fa molta paura. No, l'hai detto giusto tu, io li chiamo Snaps. Vabbè, incredibile. Allora, andiamo con gli ascoltatori. Intanto c'è un SMS 342-38-6666 di, credo che sia Vincenzo, che dice a proposito dell'ascoltatore che ha chiamato per raccontarci il suo racconto epico di esame di maturità, ma che tristezza il racconto di Giovanni sul suo esame, pensare che chi imbroglia sia un figo. In realtà noi ci siamo appassionati, ma non tanto per il tentativo di imbrogliare col bigino sotto il banco, soprattutto perché l'hanno beccato, ci ha fatto molto ridere questo, onestamente. Poi comunque parliamo di un ragazzo che lavorava e faceva il serale, si è impegnato, è stato rimandato al suo esame di sistema, mi sembra che abbia pagato abbastanza per il suo tentativo di furberia, ci si poteva ridere sopra, io credo, Vincenzo, senza altro. Alessandro da Modena, benvenuto. Buongiorno. Vai. Buongiorno, io vi volevo raccontare del mio esame di maturità del 1984, che tra l'altro era l'ultimo anno in cui iniziavano i primi di luglio gli esami e finivano ad agosto a volte, insomma, i primi di agosto. Facevo la maturità classica e quell'anno, la sera prima del compito di latino, in un liceo di Lecce trovarono la busta aperta col compito del compito di latino. Ah. E quindi partì una task force dal ministero, perché allora non c'era internet e quindi almeno non era diffuso, e utilizzarono la cosa più efficiente che c'è in Italia, che sono i carabinieri, e dal ministero partì, insomma, a macchia d'olio la distribuzione del compito di riserva. E il mattino alle 8:30 arrivò nel nostro liceo, come negli altri licei, il maresciallo dei carabinieri con la busta di riserva del compito di latino. Il compito di latino, che almeno a suo tempo, immagino anche adesso, era sì, normalmente relativamente semplice, c'era, non so, qualcosa di Cicerone, ma insomma 5-6 righe. Invece era il compito di riserva, era un test degli Annales di Tacito, una ventina di righe, una cosa impestatissima, che probabilmente lo mettevano come compito di riserva perché tanto non si usava mai, ecco, non veniva mai utilizzato. Quindi per colpa di qualcuno, insomma, che ha voluto fare il furbo a Lecce, mi sconforto sì. per questo compito allucinante che mise in crisi anche in qualche modo i professori interni e esterni, sì, che ci dettero, insomma, dico, un aiuto, qualche dritta, ecco, perché insomma era troppo difficile. Come è andato in un secondo, Alessandro? Hai passato l'esame, sì o no? Sì, no, io poi andavo bene, poi meno male ho preso. Perfetto, c'eravamo agitati. 60-60, ma allora, però voglio dire, alla fine poi tutti presero il voto che dovevano prendere, ecco, non è che, però insomma lì per lì non è stata una cosa molto molto simpatica. Grazie, ecco, Alessandro, vedete. Grazie. Che alla fine i racconti sono sempre legati al tentativo in qualche modo di frodare, di fregare, di farcela con una scorciatoia. Ascoltate prima col bigino, questo a Lecce, che avevano comunque aperto la busta il giorno prima, quindi sapevano già la traccia, e quindi si gira sempre un po' intorno a quella cosa lì. E vabbè, del resto gli esami sono degli ostacoli da superare, e quando si trova di fronte le prova tutte, le inventa qua tutte. Non bisogna però fare troppo esagerare, insomma. Ma hai avuto una telefonata da qualcuno casa, che da dice casa, che non bisogna copiare? Una volta anch'io ho fatto il rotolino. A un esame all'università ho fatto il rotolino. Io ho fatto alcuni esami di una facoltà scientifica, fisica, prima di fare scienze politiche, e sono andato col rotolino con tutte le formulette. Non l'ho aperto perché era illeggibile, era scritto talmente piccolo che come cavolo fai a usare? Quello è il problema vero. Come fai a usare l'aiutino? Anche ti spiego. Valentina, che ci scrive un SMS, sì, al 2386666 dicendo: la maturità classica, durante la terza prova indossai una gonna lunga scrivendomi le formule matematiche sulle gambe per consultarle comodamente chiedendo di andare al bagno. Ah. Luca da Bergamo, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ho telefonato per il discorso dell'acqua che faceva prima. Sì. Prego. Tutti gli anni ci troviamo a parlare di questa cosa qua, ma vedo che comunque la malgestione dell'acqua, almeno sul nostro territorio, è evidente. Prima cosa, non è mai stata fatta un'analisi di impatto ambientale, l'aver cambiato il sistema di coltura che c'era almeno sul territorio, nella bassa bergamasca il cremonese, in cui c'era tutto un allagamento invernale, perciò una trattenuta delle acque.

il bacio di mezzanotte nelle piazze dei 200 borghi più belli d'Italia. Sarà il bacio più partecipato dell'anno, forse, a questo sicuramente punto. Sarà un minuto mozzafiato, l'abbiamo definito. Poi se uno vuole cominciare a baciarsi prima, sì, va bene, insomma. Anche poi dopo può continuare. Senta, ci fa qualche nome di qualcuno di questi? Alcuni ce li ha già detti, e soprattutto come si entra, Bevagni. Come si entra nei borghi più belli, giusto, d'Italia? C'è una giuria, si può fare domanda, sì. Decide tutto lei. Milano può fare domanda o Milano non è borgo? No, assolutamente no. Massimo 15.000 abitanti nel comune, ecco, e 2.000 nel borgo. E poi c'è un procedimento di certificazione che per verificare ben 72 parametri. 72 parametri? È la miseria. Sì. Infatti ne entrano uno ogni quattro domande che abbiamo. Ok. Quindi abbiamo visitato quasi 800 borghi in questi 15 anni. E ne avete bocciati 600 che non sono i più belli, ma che sono belli, sì, comunque. Sì, sì, sono belli comunque, però certo, non sono i più belli. Certo, è giusto. La classifica è classifica. Vabbè, facciamo una piccola parata di stelle. Ecco, sì. A coppie. Una piccola passerella, ci fa qualche nome, così noi se li conosciamo sogniamo, se no immaginiamo e cerchiamo e li googliamo. Intanto tutti i borghi del Friuli, perché hanno fatto un programma comune, sono 10 borghi, da Valvasone, Gradisca di Solto, Benzone, che ha vinto tra l'altro la trasmissione Il Borgo dei Borghi, che so, Raggiolo nel piccolo comune in Toscana, Brighella in Emilia Romagna, Gangi in Sicilia. Gangi. Ce ne sono 200, basta andare sul sito, sì, www.borghipiubellid'Italia per scegliere quello che è più vicino, che si ritiene più adeguato. Un modo diverso per passare una serata in uno di questi borghi, magari scoprirlo, e quindi però dite che volete festeggiare il solstizio d'estate, ma c'è già stato il solstizio d'estate. Il solstizio d'estate è la prima serata, che è un aperitivo in musica, che sì, come il 21 giugno è l'anno europeo, è il giorno europeo della musica, come certo, è stata fatta una delle manifestazioni musicali negli stessi borghi, che poi il sabato successivo al solstizio fanno la festa. Certo, va bene il solstizio, ma si aspetta il sabato, giustamente. Perché poi se si va a finire tardi la mattina, c'è la domenica per dormire. È giusto. O rimettiamo il solstizio d'estate come festa nazionale, esatto, come festa nazionale mobile, oppure giustamente si fa il sabato dopo. Andiamo avanti così. E poi quest'anno c'è una novità, che partecipano a questa manifestazione anche i nostri cugini, diciamo, le associazioni di borghi più belli di Spagna. Ah, pensavo i francesi. I francesi l'anno prossimo. Ah, perfetto. Sai che i francesi sono sempre un po' più complicati, bisogna prenderli un po' con le molle, perché c'è anche l'associazione dei borghi più belli del mondo. Esatto, di cui noi facciamo parte, siamo stati tra i fondatori. E il regolamento quindi è lo stesso, è sempre quei 72 parametri di cui ci parlava prima? Beh, noi siamo quelli che ne abbiamo di più. Ah, perfetto. Poi, insomma, è sempre complicato dappertutto entrare, quindi, certo, abbiamo tanti borghi, quindi dobbiamo fare maggiore selezione, sì, perché sì, sennò cioè seleziona l'ingresso ai borghi, si squalifica la categoria. Va bene, grazie Fiorello. Grazie mille. Buona notte romantica a tutti. Aereo che vola, baciami ancora. Tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode. E a proposito di romanticismo di cui abbiamo parlato, e anche a proposito di baciami ancora, ricordo che oggi a Milano c'è il Pride, Milano Pride, alle 14.30 c'è l'assembramento in piazza Duca d'Aosta, e alle 15.30 c'è la partenza della parata, che poi arriverà in Porta Venezia dopo aver percorso Corso Buenos Aires. Se lo ricordavo, io ci sarò. E... bene, hai fatto bene a dirlo, Carlo. E noi ci abbiamo anche in chiusura Silvana da Rimini, però, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Eccola qua, tocca a te. Dici tutto. Sì, parlando della carenza di acqua, sì, già 20 anni fa, sì, ricordo che mi ha colpito un amico israeliano che mi diceva che le loro coltivazioni, ma anche l'acqua della cucina, insomma, veniva tutta dalla desalinizzazione dell'acqua. Parola difficile, di mare. Parola difficile, che vuol dire togliere il sale però dall'acqua di mare, si capisce, sì, il concetto. Quindi sì, loro toglievano. Comunque loro vivevano, sì, cioè proprio a grande raggio con quest'acqua, insomma. Sì, è che temo che bisogna essere molto ricchi per poterselo permettere, perché costa molto la desalinizzazione dell'acqua di mare. È che è una parola che nessuno riesce a desalinizzazione a dire, questo bisogna dirlo. Costa anche dirla come sì. parola, credo. Però, che si paghi anche una royalty. Sarebbe interessante saperne qualche cosa, e se diventerà una priorità, se... Io ti posso dire, Silvana, una cosa, che tra le buone pratiche di Coldiretti, di cui ci ha in parte parlato anche Manfredini a inizio puntata, ci sono anche modelli di importazione proprio da Israele, che è famosa per riuscire a irrigare i suoi frutteti nel deserto. E quindi sono bravini sicuramente a far questo. Però loro, come stavi giustamente dicendo Alessio, usano questa tecnica per cui goccia a goccia bagnano proprio la pianta, gli mettono di fianco un minuscolo rubinetto che sgocciola, quindi... manco una goccia in più di quello che serve. Sono metodi che funzionano in Israele, forse anche alle Cinque Terre a Genova, secondo me, così a sensazione, dove sono tirchietti. Va bene, grazie Silvana, comunque, per essere stata con noi. Buona giornata. Vince invece oggi il nostro libro Giovanni da Milano, col suo racconto dell'esame di maturità, col bigino sotto il tavolo, che poi gliel'hanno ritrovato con nome e cognome e l'hanno un po' strigliato. Buona maturità a tutti, a tutti, quelli che assolutamente. Saluto anche Marco V, che ci riempie di insulti in questi messaggini e dice delle fesserie straordinarie. Riesce anche ad andare contro il direttore degli Uffizi, cioè come se il direttore degli Uffizi ha detto delle cose sbagliate sugli Uffizi. Ma noi gli vogliamo bene anche a Marco. Sei stupendo. Ci sentiamo domani 8:30-10 con Si può fare. Ciao, grazie Andrea Piana, Claudia Schiattone, Carmelo Lauricella. Ciao da Alessio Maurizi e ciao da Carlo Gabardini. A domani. Ascolta il podcast.